La vita è dura, come per tutti, però con qualcosa in più, perché il dato emergente che viene fuori, che è quello che si sa, è appunto che hanno chiuso i centri diurni, quello che rimane appunto sono solamente i centri residenziali, però il problema è che sono saltate anche tutte le altre attività, quelle che servono proprio per riempire la vita delle persone disabili, cioè che sono delle cose che sembrano banali, ma banali non lo sono, che sono quelle appunto di uscire, andare a portare i ragazzi a mangiare una pizza al cinema e organizzare dei momenti di socialità, queste cose, le attività sportive, ecco, quelle che si possono fare, sono saltate tutte, e questo è un danno molto grosso, insomma, ecco. E poi c'è la questione appunto dei centri disabili, dei centri diurni, che a differenza delle scuole, dei centri diurni sono andati avanti ancora una settimana, 10 giorni, tenuti aperti, secondo me giustamente, perché la situazione delle famiglie senza i centri diurni è pesante, ecco. Sì, il carico grava sulle spalle delle famiglie. Carica sulle spalle delle famiglie, allora lì ci sono appunto dei casi, ci sono persone che, con famiglie complete, magari persone che come noi hanno anche la casa con giardino, per cui uno sfogo c'è, invece ci sono appunto nuclei familiari composti da 2 persone, la mamma e il ragazzo che non è più un ragazzo. In questi casi qui ci sono dei problemi, cioè mancando il centro diurno la situazione è pesante. Anche la questione dell'assistenza domiciliare pone dei problemi sia per le protezioni appunto sia degli utenti che del personale, e il dilemma, il rischio insomma del contagio. Gli interventi domiciliari sono rimasti, però gli interventi domiciliari che sono rimasti sono quelli che sono erogati dall'ASL, quelli già ridotti all'osso, che sono gli interventi proprio per gli atti necessari della vita quotidiana, porta la spesa, l'aiuta a cambiare, a pulire un poi in casa, queste cose qui molto banali, quindi sono interventi che già nel tempo si sono già molto ridotti, cioè quindi per dire tu le ASL, le cose le hanno ridotti all'osso, questi sono rimasti con interventi di protezione, che sono guanti, mascherine, non so se sono ancora arrivate le mascherine per questi interventi, spero che siano arrivate, però a questo punto l'intervento è proprio un intervento proprio fisico, e l'intervento domiciliare ha 2 scopi, uno che è quello appunto di aiutare nella banalità della vita quotidiana, e l'altro quello anche di dare un supporto, di riempire la giornata della persona e così via. La seconda funzione, che anche questa era già ridotta al dosso, e quindi quella è proprio ridotta, perché non puoi avere contatti, cioè i contatti fisici li devi ridurre il più possibile. Quando si ha a che fare con persone disabili, il contatto fisico è importante, è inevitabile per dare una mano. C'è anche la questione del sistema immunitario, che in alcune persone che hanno disabilità è particolarmente fragile. Sì, infatti per questo molte persone che utilizzavano l'intervento domiciliare in questo periodo ne hanno rinunciato, proprio perché molti disabili fanno terapie, comunque si tratta di persone sempre fragili, ecco, sempre più fragili fisicamente, ecco, degli altri. Non è sempre così, però molti ce n'è, insomma. Ci sono cose che le autorità potrebbero fare per agevolare appunto la situazione di queste persone? Qui bisogna pensare di riuscire a tornare alla normalità il prima possibile. Perché? Perché di fronte a un danno possibile di una malattia, qui se continua questo, noi abbiamo dei danni certi sulle persone, perché noi abbiamo degli equilibri familiari, degli equilibri appunto con la malattia che sono il frutto di anni di lavoro e che rischiano di saltare, ecco, in questo periodo. Quello che si può fare in questo periodo è la cosa che stiamo tentando di studiare anche noi, di fare appunto il maggior, utilizzare gli operatori di centri diurni per fare anche un supporto a distanza, per via informatica, telefonate, roba del genere. È un supporto psicologico che vale quello che vale, però non far sentire da sole le persone è importante. E poi bisogna pensare anche a una transizione, visto che qui con l'aria che tira mi sa che i centri diurni ci mettono un po' a essere aperti. La transizione significa di vedere comunque di utilizzare il personale che attualmente è in ferie, quindi dopodiché ci si dovrà passare al fondo integrazione straordinario e vedere di riuscire a utilizzare questo personale per gli interventi domiciliari, e gli interventi domiciliari bisogna studiare come farli per farli in sicurezza. Però su questo bisogna che ci sia anche una via libera della regione a utilizzare il personale in maniera diversa, perché ci sono anche problemi appunto di carattere sindacale, di sicurezza e così via, ecco, che non sono banali tutte e due.